Ad oggi le adesioni sono circa 6.000, noi contiamo di superarle, sarà una grande manifestazione. Ovviamente le partenze vengono organizzate a livello territoriale, nel frattempo abbiamo già svolto più di 2.000 assemblee, cogliendo un grande interesse da parte dei lavoratori. Quindi un deciso no contro questo aumento dell'età pensionabile. Non solo contro questo, ma anche contro una impostazione del sistema previdenziale che è un'impostazione che punisce i soggetti deboli, in particolar modo i giovani, in particolar modo le donne, e che trattando tutti quanti alla stessa maniera e allungando progressivamente l'uscita per il pensionamento diventa iniquo. Sono previste queste deroghe, però non siete soddisfatti ugualmente. No, stiamo parlando di interventi assolutamente marginali, si tratta di provvedimenti, quelli che passeranno attraverso la legge di bilancio, che sono un pannicello caldo, servirebbe ben altro, bisognerebbe bloccare l'aspettativa di vita, bisognerebbe ragionare di lavoro di cura, in particolar modo per le donne, bisognerebbe ragionare di pensioni di garanzia per i giovani. Lei ha detto comincia la mobilitazione perché dopo ne farebbe delle altre. Noi pensiamo che questo debba essere il primo appuntamento, un importante appuntamento sulla cui riuscita noi stiamo lavorando alacremente, ma ovviamente non ci si può fermare, non escludendo nessun tipo di iniziativa di lotta, nessun tipo di iniziativa. Questo è il rapporto con gli altri sindacati che sono stati molto meno critici. Adesso le valutazioni ovviamente ciascuno fa le proprie, noi però siamo saldamente fermi a una piattaforma unitaria che abbiamo presentato insieme a CISL e UIL, rispetto alla quale abbiamo già fatto un accordo importante lo scorso anno con il governo, rispetto al quale era necessario che ci fosse una successione anche quest'anno rispetto ad un accordo che cominciasse a rimettere in moto alcuni meccanismi bloccati o a fermarne alcuni perversi. Queste risposte semplicemente non sono arrivate, quindi il sindacato è partito chiedendo di poter uscire in pensione prima, torna a casa che si esce in pensione dopo. Per noi questo, come dire, è semplice, bisogna mobilitarsi. Quindi comunque secondo lei CISL e UIL sbagliano a non mobilitarsi? Io dico quello che è giusto che faccia a noi e soprattutto quello che è giusto che faccia a noi nel rapporto con i lavoratori. Noi non abbiamo incontrato lavoratori che ci hanno detto fermatevi, abbiamo incontrato lavoratori che ci hanno detto siete stati troppo tiepidi prima, quindi non abbiamo nessuna intenzione di fermarci, bisogna che un elemento di giustizia in questo paese ricominci ad essere posto sul tavolo. Questo è il paese dei grandi evasori, questo è il paese di chi ha generato profitti e accumulato ricchezze, e a pagare, guarda un po', sono sempre i lavoratori e lo fanno pesantemente sul sistema previdenziale. Una domanda anche sulla vertenza Amazon. Certo. Con gli ultimi sviluppi non sono particolarmente rosei. Ieri, tra l'altro, il consigliere regionale Alleva ha lanciato questa proposta di indire un nuovo sciopero, questa volta sotto Natale, dopo il Black Friday. Io ci tengo a dire questa cosa perché, siccome stiamo parlando del primo sciopero in Amazon al mondo, e ovviamente gli occhi sono tutti puntati su questa vertenza, perché quello sciopero è riuscito? Che ne dica l'azienda? Quello sciopero è riuscito perché è stato costruito con i lavoratori. Quindi noi accettiamo consigli ovviamente da parte di tutti, ma le decisioni si assumono in assemblea con quei lavoratori che devono sentirsi sufficientemente sicuri del passo che compiono. In ogni caso, è evidente che se non arrivassero risposte dall'azienda e quindi l'apertura di un tavolo per cominciare a discutere di salario, di condizioni di lavoro, di ritmi e di tutto il resto, noi a quel punto valuteremo altre iniziative. Quella è stata una prima mobilitazione, un primo sciopero importantissimo, insomma ci ha guardato il mondo. Di sicuro non ci fermiamo, ma in ogni caso non lo facciamo a partire dalle sigle sindacali, lo facciamo a partire dai lavoratori.